as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo di nuovo qui al Paio delle Rose, oggi puntata speciale, manifestazione davanti ai cancelli della Breda, siamo andati in regione, c'era anche Alessandra Testa con noi, collabora con il Paio delle Rose, giornalista del Corriere di Bologna. Ecco, sentirete un'introduzione fatta da lei e poi una serie di interviste fatte da lei e anche fatte da me ai lavoratori durante la manifestazione, funzionari sindacali per quanto riguarda la Breda. C'è una bella notizia, ieri si è svolto un incontro all'ex Mise, al Ministero, in cui finalmente pare che ci sia stato un impegno da parte dello Stato italiano a ricapitalizzare la questione, la richiesta dei lavoratori in manifestazione, di che gli imprenditori, in questo caso lo Stato, che hanno in mano la Breda, tirassero fuori i soldi per poter fare gli autobus che servono alle nostre città, servono in Italia, autobus elettrici sono fondamentali. Adesso sentiremo Alessandra che ci spiegherà un po' la situazione e poi le varie interviste. A dopo. Proprio mentre stavamo preparando questa puntata dedicata a Industria Italiana Autobus, da Roma è arrivata una piccola buona notizia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato l'ok alla ricapitalizzazione della società. Che cosa significa? Significa che entro il prossimo 24 febbraio nelle casse dell'impresa arriveranno nuove risorse per far ripartire la produzione che è ferma da mesi. Ma partiamo dall'inizio. I lavoratori di Industria Italiana Autobus sono in stato di agitazione. L'azienda, che è il principale produttore di autobus in Italia e che a Bologna conoscono tutti come Breda Menarini Bus, è di nuovo in crisi di liquidità e la produzione è ferma. Eppure siamo di fronte a un record di commesse. Sono ben 1000 gli autobus ordinati e 600 sono da consegnare entro la fine del 2023. Ma la mancanza di risorse nelle casse della società non permette di pagare i fornitori e i materiali che servirebbero per assemblare i veicoli non arrivano in fabbrica. Per questo motivo i sindacati FIM, FIOM e UIL hanno proclamato unitariamente 4 ore di sciopero per chiedere al governo di rilanciare l'impresa e agli azionisti di investire su 2 stabilimenti di Bologna, dove sono occupati 190 dipendenti, e di Flumeri, in provincia di Avellino, dove ce ne sono circa 400. Ma perché i sindacati chiedono l'intervento del governo? Perché 2 dei 3 soci di Industria Italiana Autobus sono pubblici. Si tratta di Invitalia, che è l'agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e di Leonardo, la ex Finmeccanica. Noi, il giorno dello sciopero, che era il 10 febbraio, eravamo davanti ai cancelli della Breda Menarini. Abbiamo percorso insieme agli operai il corteo che li ha portati fin sotto le finestre della Regione Emilia-Romagna, dove hanno incontrato l'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla. Sentite che cosa ci hanno raccontato i lavoratori, il delegato dell'azienda, il funzionario della FIOM Mario Garagnani, che segue la vertenza, e il nuovo segretario generale della FIOM Simone Selmi. Buon ascolto. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Manifesto, resto nudo. un'occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Dopo ci vuole un piano industriale, cioè il Ministero, Invitalia e Leonardo devono decidere di investire. Perché sappiamo che CDA, cifra manca, qual è la cifra mancante? Adesso CDA deve ricapitalizzare, deve cacciarci dentro dai 30 ai 40 milioni di euro per ricapitalizzare. Però questo è, rischia di essere un'altra piccola punturina. Mentre loro devono produrre 1000 autobus e hanno bisogno di un liquido circolante di 10 milioni al mese. E quindi devono fare un investimento per l'anno 2023 importante per garantire la liquidità e fare la produzione. Ma questi 1000 autobus entro quando devono essere consegnati? Devono fare 600 entro quest'anno. E a che punto siamo? Quanti non ne avete neanche uno. Allora nel progetto che ci hanno presentato a fine anno era 600 autobus nel 2023. Siamo già in ritardo, quindi già se partissero domani mattina non riuscirebbero probabilmente a farne 600. Quanto tempo ci vuole per fare un autobus se si hanno tutti i materiali? Se hanno tutti i materiali loro riescono a produrre tra Bologna e Flumeri 4 autobus alla settimana, 3-4 autobus alla settimana. Ma quali sono i materiali soprattutto che mancano? Ma lì è tutta la filiera dei fornitori. I fornitori hanno avuto i crediti che avevano pregressi sanati. Adesso però non hanno fiducia e quindi quando fanno gli ordini pretendono pagamenti anticipati. E quindi ci vuole la liquidità immediata. Perché per dire, ieri io ero in Confindustria che hanno presentato questa nuova divisione della Pay Mobility, sai quella che fanno i soggetti per gli altri? Allora gli ho chiesto, noi avevamo la Breda come storico cliente, ma adesso non l'abbiamo più fondata, quasi dagli anni 90, perché non ci fidiamo. Ma cavoli, è una società. Il problema è quello, perché come ogni 6 mesi, ogni 12 mesi c'è un'iniezione di liquidità che serve però solo a sanare il pregresso, finché non si fa il salto di qualità, di avere una prospettiva di investimento a lungo termine. Anche perché il problema è che rischiano di continuare a accumulare debito, perché loro gli stipendi li pagano stipendi e non fa produzione, è una roba che non può più durare. Secondo te l'impegno di debole potrebbe anche fare un prossimo, non so, se ti perde, è vero che ti perde per fare i banchi pubblici, però il problema adesso, in questo momento specifico, a differenza del passato, è che non c'è un problema di ordini, cioè gli ordini ce li hanno, gli autobus ordinati ce li hanno, quindi non abbiamo bisogno di far moral suasion nei confronti di Tipper per ordinare degli altri. Ho capito, perché non ho loro capito. Gli ordini ce li hanno già. Ho capito. Ed è un segmento che ce n'è da lavorare per tutti, perché ti ripeto. Tra l'altro è l'unico segmento dell'automotive che sull'elettrico è anche avanti. È avanti, ma è anche, diciamo, nella prospettiva, siccome si va sempre di più verso una mobilità collettiva e si disincentiva la mobilità individuale. Certo. Cioè, loro hanno i numeri, ma non che ha fatto Breda, che fanno gli studi di prospettiva sul settore, vanno dai 30.000 ai 50.000 autobus da fare nei prossimi 5-7 anni a livello europeo. Quindi è... Però guardando il capannone, no? Lo stabilimento, sembra fermo agli anni 80, non c'è nessun investimento. Dov'è che la fanno la ricerca e lo sviluppo? No, ma lì c'è, perché poi c'è tutta la parte di dietro. Che è tutta uffici di ingegneri, diciamo che la parte impiegatista e di ricerca e sviluppo non sono mai fermati anche nelle nuove assunzioni. Sulla produzione. Ho parlato con un ragazzo che è stato assunto l'anno scorso. È sulla produzione che piano piano abbiamo questi 90 lavoratori che sono tutti vicini alla pensione. Lo dicevo con l'Epore prima. È chiaro che nella prospettiva, se tutto va bene, comunque il grosso della produzione non sarà Bologna, sarà Flumeri. Bologna deve diventare il centro di eccellenza su ricerca, sviluppo, gestione amministrativa, ma anche prototipi e nuovi prodotti e una parte di produzione collegata ai prototipi, alla ricerca e sviluppo, che ti industrializza il mezzo. Poi dopo i numeri magari li fai a fare anche a Fiumeri. Però questa è un'azienda che può avere 250-300 persone a Bologna, che fa test, ricerca e sviluppo, prototipi e quella produzione connessa ai prototipi. Ma questa era l'idea di fare il polo dell'elettrico bolognese. Esatto. Ti ringrazio, dai. Poi sì, l'altra cosa è anche la regione, invece, la regione sul tema di infrastrutture collegate alla mobilità pubblica, nel senso che c'è tutta la filiera dell'idrogeno, la filiera dell'elettrico, eccetera, che è una decisione strategica che deve fare, quello si dipende. Ma noi sull'idrogeno saremo in grado anche di lavorare come IA? Assolutamente sì, adesso c'è questa joint venture con Caetano Bus e Toyota. È vero. Quindi Toyota, che poi è Toyota la proprietà di Caetano Bus, potrebbe diventare partner industriale di Industria Italiana Auto sulla parte dell'idrogeno, perché la tecnologia ce l'hanno, non hanno il player, me l'ho dimenticata. E potrebbero scegliere come player quello, ma quello è anche su quello, è il ministero che deve farsi garante di una partnership non commerciale, cioè non che vengano a darci gli auto se li vendiamo e basta, ma industriale. E... non lo so, la Breda può essere il simbolo del... Ma la Breda in realtà più che un simbolo, cioè, allora credo che la Breda possa essere sicuramente, come sempre è stata nella sua storia, un simbolo per la città di Bologna, e questo ne va dato atto. La vertenza oggi di Breda però è una vertenza che non ha una caratteristica soltanto territoriale, è un po' più generale. Perché tanto è su due regioni di stabilimento della Breda, ma soprattutto perché la prospettiva futura della mobilità è anche quella pubblica e quindi tutto il processo di transizione è fermo oggi in questo stabilimento. Noi abbiamo l'esigenza che politicamente il governo italiano decida che tipo di sviluppo dare alla futura mobilità, compresa quella pubblica. E qua serve un investimento strutturale pubblico che dia la possibilità di reindustrializzare lo stabilimento e partire con la produzione. Gli ordini ci sono, ma non escono gli auto. No, anche perché paradossalmente nell'automotive, che c'è il problema che la transizione verso l'elettrico è una spada di Damocle, paradossalmente nel mondo degli auto sono più avanti. Esatto, qua sono più avanti perché c'è un investimento dei costruttori europei importante, quindi noi rischiamo di rimanere a traino di questo investimento che stanno facendo i costruttori europei e rischiamo di perdere un settore che si può sviluppare, ma soprattutto che può anche riconvertire produzioni legate alla transizione dell'altra mobilità, che è quella privata e quindi dell'auto. Senti, ma rischiamo che, cioè, noi non eravamo il primo produttore di autobus d'Italia, non rischiamo che Iveco, che è sempre italiano, ci sorpassi? Sì, Iveco ha investito, il problema è capire che tipo di investimento si vuole fare anche su Brenda Marini, cioè il rischio è quello che l'unico produttore possa diventare Iveco e noi perdiamo un presidio industriale qui. Che certo uno non si può fare concorrenza tra gruppi italiani, no. Però si potrebbe. No, però si potrebbe anche pensare a delle politiche di differenziazione. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. E da quanto tempo sei in Brenda? Dal 1 settembre 2020. Ah, quindi da poco, non sì. Hai vissuto tutta la crisi? No, ancora no, non la prima. E come sta andando? Cioè, perché io so di macchinari fermi, il capannone mi sembra un po' questo. Non dà proprio molto l'idea di un'azienda in cui si investe. No, è tutto molto fermo, nessuno compra materiale, da quello che so non ci sono soldi. Siamo completamente fermi. La giornata di 8 ore come funziona? Che dobbiamo trovarci il lavoro arrangiandoci. Cioè, quindi non avete delle cose particolari da fare? No, cioè il lavoro è sempre quello, però a volte c'è, a volte non c'è e nell'ultimo periodo non c'era praticamente niente da fare. No, l'abbiamo fatta l'anno scorso e dopo quest'anno siamo andati a lavorare tutti i giorni, ma a procacciarci il lavoro cercando cose da fare, poi è tutto molto, non c'è una linea che segue una direzione precisa e quindi è tutto. Ma quando si dice andiamo a procacciarci il lavoro, che cosa intendi esattamente? È che un giorno fai una cosa, poi ti ritrovi a mettere a posto il carretto tutto il giorno, a fare cose che non sono utili, non sono propense al lavoro, poi dopo ti fermo. Da fare. Ciao, posso farti un 14 aprile 97. Quindi dal 14 aprile 97. Quindi l'hai vista tutta la crisi? Tutto, sì. Tante crisi, ogni 4-5 anni ci fanno la crisi qua. Posso chiederti come ti chiami, quanti anni hai? 50 anni, Giberti Mirko. E hai una famiglia, come la vivi? 3 figli e una moglie. Ah, 3 figli piccoli? No, 18 e 14, 2 gemelle. E come la vivono questa crisi? Cioè, siete preoccupati? Ma... I figli non sono mai preoccupati. Beh, grazie loro. Loro, sono sempre tranquilli. Io un po' ci ho fatto il callo, ma ci guardiamo. È inutile, te l'ho detto, ogni 4 anni ne facciamo una, quindi ci fai anche un po' il callo. E vi aspettate qualcosa in particolare? Cioè, il sindaco ha detto delle belle parole, come... Sono arrivato lungo perché ero al telefono con uno dei figli che era malato, non ho sentito. Ah, ok, va bene, grazie. Posso chiederti qualche cosina? Io seguo questa azienda ormai da 1000 anni, sono venuta anche a Roma nel 2018. Volevo capire, cioè, perché a me sembra veramente come se si fosse riavvolto il nastro nella stessa situazione di 6 anni fa. Sì, non siamo messi benissimo. Certo che hai ereditato anche una situazione non facile. Però adesso siamo veramente con l'acqua alla gola, se non si ricapitalizzano qui rischiamo lunedì o quando c'era il consiglio di amministrazione di tutti a casa senza lavoro. Ma tu da quanti anni hai lavori? Io sono qua? 26 anni che sono qui in Breda Menarini. Quindi l'hai viste tutta praticamente? Sì, le ho viste tutte. E quali sono? Intanto posso chiederti come ti chiami, quanti Marco. Anni hai? E quanti anni hai? Ne ho quasi 49. Beh, quindi insomma sei un bambino quando sei entrato. Avevo 21 anni, è il mio primo lavoro. Pensavo di andarci in pensione e qui dentro, però vista la situazione non E ti so. Ricordi il momento, ci sono stati anche dei momenti sì, d'oro, sì, no? Sì. Quando c'era Menarini. Sì, ma quando sono entrato io c'erano più di 700 persone, adesso siamo in un centinaio neanche. Ti ricordi che anno era? Ah, 96, 97. Adesso quindi siamo... oggi adesso quanti siete? 180 più o meno? Che lavoriamo, cioè operai, siamo in 70, 70, compresi magazzini, assistenze e quant'altro, e un centinaio di operai, di impiegati. Ma tu da dove vieni che non ti sento da Ferrara? Da Ferrara, quindi sei anche un pendolare. Sì. E secondo te com'è la giornata lavorativa? Perché mi sembra che con poco materiale è anche difficile far passare le 8 ore, no? Sì, infatti. Se non arriva materiale, cioè noi non possiamo, se non arriva ma la roba... Ma cos'è che manca esattamente? Devono comprare il materiale, mancano i soldi per comprare il materiale e se non comprano il materiale, adesso l'amministratore delegato sta ripianando, almeno a detta di lui, sta ripianando tutti i debiti fatti con i fornitori precedentemente, solo che adesso i fornitori ovviamente prima vogliono essere pagati e poi ti mandano la roba. Ma viene a trovarvi, viene a parlarvi ogni tanto, lo incontrate? Viene ogni tanto a fare qualche giro, ma non dice niente, non lo sentiamo parlare molto. Va bene, ti ringrazio tanto. Prego. Sai, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Allora, siamo qui in regione insieme al delegato della FIOM, della Breda Mignanini Bus, Maurizio Muzzicato. Insomma, raccontaci un po' il motivo perché siete qua, siamo qui in manifestazione. Allora, noi oggi siamo qui sotto la sede della Regione Emilia-Romagna per chiedere alle istituzioni, quindi al Comune di Bologna e alle istituzioni della Regione Emilia-Romagna, di aiutarci nella chiedere un incontro al Ministero che si chiama delle imprese del Made in Italy, l'ex Ministero dello Sviluppo Economico, proprio in virtù del fatto che si chiama Ministero delle Imprese del Made in Italy. Noi siamo un'azienda Industria Italiana Autobus che occupa nel suo complessivo circa 570 lavoratrici e lavoratori, di cui 180 a Bologna e 370 a Flumeri, Avellino, provincia di Avellino. Noi produciamo mezzi autobus per il TPL, trasporto pubblico locale, produciamo mezzi che sono anche ecosostenibili e in materia di transizione ecologica, il tema generale un po' della comunità europea, noi siamo in grado di costruire autobus di questo che vadano nella direzione della transizione ecologica, e purtroppo noi siamo fermi con la produzione perché i soci dell'SPA di Industria Italiana Autobus, che sono Invitalia e Leonardo, ex Finmeccanica, che arrivano al 70% come azioni di questa SPA, dovrebbero ricapitalizzare in un CDA che si terrà il 13 di febbraio, ma noi non abbiamo notizie sulla volontà di questa ricapitalizzazione. Cioè, praticamente tu ci stai dicendo che in Italia, che in questo momento ha bisogno di autobus ecologici, che si riempie la bocca questo governo, quello che c'era prima, quello ancora, di transizione ecologica, però oggi in Italia eccellenza degli autobus, insieme a Bologna, insieme a Avellino, lo Stato italiano, perché parliamo di Invitalia e Leonardo, non investe su questo. Assolutamente sì, perché ricordo che noi siamo l'unico player, l'unico produttore, non soltanto produttore, noi progettiamo, produciamo, commercializziamo, facciamo un servizio di service che sarebbe l'assistenza per le municipalizzate, soprattutto del luogo, e quindi esattamente la situazione è questa. Ricordo che Invitalia è l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, e noi siamo un player nazionale, siamo l'unico player nazionale che produce autobus. Ma dunque, gli autobus che noi vediamo nelle città italiane, quelli nuovi, cioè chi li fa? Beh, sicuramente noi in questo periodo, noi considerate che abbiamo prodotto tra i due stabilimenti 111 autobus, ma in un anno, questo è pochissimo, a Bologna addirittura 10-11 autobus in un anno, quindi gli altri sono i nostri competitor. Dove vengono? Vengono dall'estero, vengono prevalentemente dall'estero, noi siamo l'unico produttore nazionale. Dunque lo Stato italiano non acquista gli autobus dello Stato italiano, ma li acquista dall'estero. Esattamente, non ci danno la possibilità di produrre. Noi siamo fermi effettivamente da oltre un anno, abbiamo fatto anche uno sciopero il 26 luglio, ma è così, adesso ci ritroviamo qua a manifestare. Io ho sentito Bonaccini che più volte ha chiesto che si vuole investire sulla transizione ecologica, però oggi stai dicendo questo, di mantenere le promesse. Sì, no, devo dire che le istituzioni del territorio comunque sono sempre stati sensibili al tema, questo lo voglio dire per correttezza, perché è vero, però bisogna a questo punto veramente fare il passo successivo, cosa che adesso si sta facendo, lo vedremo, perché bisogna che intervenga il Ministero. Che si chiama Ministero delle Imprese del Made in Italy. Noi abbiamo questa necessità che i soci di questa compagine societaria agiscano ricapitalizzando, quindi immettendo liquidità, ma non soltanto, non basta, perché i soldi non bastano, bisogna che questa azienda torni ad essere un asset strategico del paese. Ok, noi saremo con te, oggi siamo in manifestazione tutti quanti insieme, siamo diverse aziende come la Bonfiglio dove io lavoro e siamo qua. sosterremo questa battaglia, perché non è solo la battaglia della Breda ma di tutti i cittadini italiani. Assolutamente sì, vi ringrazio, ne sono consapevole, vi ringraziamo tutti a nome delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie. Allora, avete sentito le interviste che ci hanno rilasciato, avete sentito muzzicato, avete capito anche che fortunatamente questa vertenza pare abbia preso un l'andamento che i lavoratori insieme alla FIOM, il sindacato che era lì presente, insieme c'era anche la UIL in realtà, credo anche la FIM se non mi sbaglio, anche se non ho visto bandiere, volevano questo, volevano che, visto che ci sono le commesse, che venissero messi i soldi per poter acquistare il materiale che serve per fare gli autobus. Ora, questa è una situazione in cui un'azienda che viene nazionalizzata in mano allo Stato, il problema non cambia. Spesso, alcune volte, le aziende di Stato si comportano peggio dei privati. Questo è uno dei casi, perché è incredibile quello che è successo. Questo ci fa capire che non basta solo nazionalizzare. I lavoratori devono gestire le aziende nazionalizzate. Bisogna nazionalizzare sotto il controllo dei lavoratori. I lavoratori devono essere il fulcro importante, perché solo loro sanno quello che serve veramente all'azienda e solo con la loro gestione si possono evitare speculazioni e altre cose del genere. Io vi lascio con questa riflessione e ci sentiamo alla prossima puntata. Orgulloso de estar, entre el proletariado.